Opera e passo. E poi vengo a deporre tutto ai piedi del tuo trono come se tutti gli atti delle creature fossero stati fatti per te. E se alcuni si negassero, io mi sostituirò per loro. Sul moto delle mie labbra ti porto il bacio di tutte le creature e con le mie braccia ti porto l'amplesso di tutti. Non vi è atto che io non voglia supplire. Tu, o mio Gesù, dolce mia vita, suggella con la tua benedizione questa riparazione e fa che ogni atto che io compio si ripeta, si moltiplichi e sia in continuo atto di volare dalla terra al cielo per portare al tuo trono a nome di tutti amore, gloria e riparazione divina. Mio Gesù, dammi la tua volontà e prendi la mia, affinché mi faccia santo con la tua santità. Ami col tuo amore. Palpiti col tuo cuore. Cammini coi tuoi passi. Ripari con le tue riparazioni e formi con la mia parola, o Gesù, nei cuori di chi mi ascolta. Mamma Regina, nascondimi sotto il tuo manto, per tenermi difeso da tutto e da tutti. Dall'epistolario di Luisa. Stando nel tuo volere. O mio Gesù, imprimo il mio ti amo su ciascuna cosa creata, su tutti i beati del cielo e in particolare nella Regina Mamma e, in virtù di quella volontà divina che le conserva belle e integre, e che la Vergine Maria possiede da Regina, ti chiedo che il Fiat Supremo venga sulla terra. Consacrazione della volontà umana alla Regina del Cielo. Mamma dolcissima, eccomi prostrato dinanzi ai piedi del tuo trono per offrirti il mio immenso amore. Qual figlio tuo voglio intrecciare come in un serto profumato tutte le preghiere, le giaculatorie, le promesse che tante volte ti feci di non compiere mai più la mia volontà. Mamma, io depongo questa bella corona nel tuo grembo come attestato di amore e di ringraziamento. Accettala. Ti prego e prendila fra le tue mani per dimostrarmi che gradisci il mio dono. Col tocco delle tue dita materne converti in altrettanti soli i piccoli atti che cercai di fare nella volontà di Dio. Oh sì, Madre Regina, il tuo caro figlio vuole offrirti oggi gli omaggi di luce e di soli fulgidissimi. So bene che tu ne possiedi già tanti. Tuttavia non sono quelli del figlio tuo. Io. Perciò, voglio darti i miei. Per dirti che ti amo e che mi impegno di amarti sempre più. Mamma Santa, tu mi sorridi? Deh. Con la tua consueta bontà accetta il mio dono ed io te ne sarò tanto riconoscente. Quante cose vorrei dirti. Mamma. Ascolta. Io rinchiudo nel tuo cuore materno le mie pene, i miei timori, le mie debolezze e tutto l'essere mio, come in luogo di rifugio, mentre ti consacro senza riserva la mia volontà. Deh. O madre mia, accettala. Fanne un trionfo della grazia. Trasformala in un campo dove la divina volontà possa estendere il suo regno. Questa volontà a te consacrata ci renderà inseparabili e ci terrà in continui rapporti. Le porte del cielo non si chiuderanno più per me, perché avendoti affidata la mia volontà, tu verrai a stare con il tuo figlio in terra e il tuo figlio andrà a vivere con la sua mamma in cielo. Oh! Come sarò felice allora! Senti, mamma carissima, per rendere più solenne questa consacrazione io chiamo qui presenti la Trinità Sacrosanta. Gli angeli ed i santi e dinanzi a tutti protesto con giuramento di fare per sempre solenne rinunzia della mia volontà. Ed ora, sovrana regina, ti chiedo come compimento per me e per tutti la tua santa benedizione. Scenda essa come celeste rugiada sui peccatori e li converta. Sopra gli afflitti e li consoli. Sopra il mondo intero e lo trasformi nel bene. Sulle anime purganti e smorzi loro il fuoco che le brucia. La tua benedizione materna sia pegno di eterna salvezza a tutte le anime. Così sia. Gesù, ti amo con la tua volontà. Sperdi la mia volontà nella tua e dammi la tua per vivere. Atto di rinuncia e di offerta. Io rinnovo i voti del mio battesimo. Rinuncio alla mia volontà, implorando quella divina. Detesto. Aborrisco. Rinuncio a tutto ciò che fin dal primo attimo della mia esistenza è stato causa di peccato mortale, veniale, vanità, eccetera. E nella potenza del fiat supremo della divina volontà offro irrevocabilmente tutto il tempo di mia esistenza terrena, dal primo all'ultimo respiro, in un purissimo, perfetto e disinteressato atto d'amore di Dio nella volontà divina. Rinnego nel modo più assoluto tutto ciò che mi può aver impedito o vorrà impedirmi in questo. Metto questo atto di rinuncia e offerta totale nelle tue mani. Maria Santissima, mia dolce e vera madre, affinché tu tutto avvalori e disponi in merito agli atti della divina volontà che per tutti ha meritato. Sigillami tu nell'amatissimo cuor di Gesù, nella sua divina volontà. Ribattezzami tu nel suo preziosissimo sangue e così ricoperto dei suoi meriti infiniti presentami alla SS Trinità. Così sia, voglio vivere nell'unità del tuo atto unico. Mio dolce Gesù, voglio vivere ogni mio atto nell'unità dell'atto solo della tua volontà divina per acquistare i caratteri divini che come luce si diffondano dandosi a tutti. Mettendo così in festa la divinità, voglio portarti in grembo la creazione tutta per darti la gioia di averla creata e per ogni tua opera ti do la gloria ed il ricambio dell'amore. Voglio prendere, maestà divina, tutti i miei atti dal tuo atto unico, perché tutto in me ti dia la gloria della semplicità dell'atto tuo. Vieni, volontà divina, e semplifica l'anima mia, semplifica il mio sguardo, la mia parola, i miei modi, i miei passi, metti in ogni mio atto il suggello della tua semplicità divina. Vieni, voler divino, e regna sulla terra nella semplicità dell'atto tuo. Vieni e distruggi ogni bugia e finzione, che d'ogni male sono il principio. Vieni e svuota le creature di tutto ciò che a te non appartiene. Vieni e rendi l'anima mia ed ogni creatura un complesso di semplicità, che è principio d'ogni vero bene e segno distintivo del tuo regno. Vieni. CFR. Vol. 23-30. 12. 1927 più vol. 27-06. 11. 1929. O volontà divina, innestati perfettamente in me perché io viva solo e sempre di te e sia così tutto trasformato in te. Comunione spirituale. O Gesù, vieni in me. Io mi getto nelle tue braccia. Chiudimi nel tuo cuore, i miei pensieri, i miei affetti, i miei palpiti, i miei desideri, la mia volontà, legali in modo da star sempre unito con te ed in continua adorazione in te e per te. Grazie. Gesù. Per me e per tutti.